sociale connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, daddy, and eat. Buonasera a tutte e a tutti e ben ritrovate al nostro spazio radiofonico, la rubrica socioculturale di Connettive Controessenze. Nella puntata di oggi parleremo di schiavitù sessuale e della tratta internazionale di donne e bambine. E lo faremo analizzando l'incredibile inchiesta pubblicata dalla giornalista messicana Lidia Cacho, intitolata Schiave del potere, una mappa della tratta delle donne e delle bambine nel mondo, in cui l'autrice mette in luce e descrive approfonditamente le dinamiche e le condizioni che caratterizzano la schiavitù sessuale di donne e bambine, che per la quantità di denaro che genera la si considera il commercio più redditizio del XXI secolo. Tra non molto tempo il numero di donne e bambine e bambini che vengono venduti in questo traffico, proprio a causa della sofisticazione e della complessità che lo caratterizza, sarà di gran lunga superiore a quello dell'epoca della schiavitù africana nel XVI e XIX secolo. Schiave del potere non è soltanto un libro che indaga le modalità con cui migliaia di donne e bambine vengono quotidianamente comprate, vendute, stuprate, affittate, sequestrate, assassinate e offerte in dono dai loro venditori ai clienti, che spesso provengono da paesi occidentali in cui le donne, almeno sulla carta, hanno acquisito una certa parità di diritti. Ma il libro è anche un viaggio doloroso e inquietante nella mentalità maschile nei confronti delle donne, che spinge molti uomini a cercare donne sempre più giovani, bambine e adolescenti, che provengono da paesi in cui la cultura della sottomissione femminile continua a prevalere. Ma vediamo nello specifico di cosa si alimenta e come viene mantenuto e gestito questo lucroso commercio di schiave. La schiavitù sessuale è un fenomeno moderno, nato nel XXI secolo. Ma quali sono le cifre esatte di questo mercato? Scrive Lidia Cacho, la tratta di esseri umani, la tratta che lo ricordiamo consiste nel rapimento, trasporto e trasferimento di persone in situazioni di vulnerabilità in alloggi attraverso l'inganno, la minaccia e l'uso della forza in cambio di denaro e a un altro soggetto che ha il controllo assoluto sulla vittima a fine di sfruttamento. Quindi la tratta, documentata in 175 nazioni, mette in luce le debolezze del capitalismo globale e la disparità provocata dalle regole economiche dei paesi più potenti. Ogni anno nel mondo 1.390.000 persone, nella stragrande maggioranza donne e bambini, sono ridotte allo stato di schiave sessuali e comprate, vendute e rivendute come materia prima di un'industria, come scarti della società, come omaggi o trofei. Chi gestisce e alimenta il mercato della schiavitù sessuale è il cosiddetto crimine organizzato, conosciuto anche con nomi come mafie, cartelli, reti o gangster, i cui scopi sono prevalentemente economici e che negoziano con lo Stato attraverso la corruzione e altre tecniche di offerta di denaro per mantenersi in vita. I crimini più eclatanti e più lucrativi delle mafie sono il commercio di armi, il traffico di droga e ovviamente la schiavitù sessuale. Il fatto che le mafie siano i principali produttori e venditori del commercio di schiave sessuali si deve alla capacità di corruzione che esse hanno per acquisire potere economico e politico nelle città e negli stati in cui conducono i loro traffici. Stati che, mediante tutta una rete di intermediari, dai tassisti ai conducenti di risciò in Asia, ai gestori di club in Europa, in Asia, in America Latina, ai locali notturni, ai poliziotti, ai funzionari di frontiere e dell'immigrazione corrotti in quasi tutti gli stati, sostengono e proteggono le mafie in questo commercio, che rappresenta un guadagno enorme per molti stati, soprattutto per quelli più poveri come la Thailandia e la Cambogia. Le mafie hanno una strategia d'azione e delle tecniche di comportamento e modalità di rete che hanno permesso loro di agire globalmente e di creare un'impresa, quella della schiavitù sessuale, appunto, che poggia e prolifera sulle culture patriarcali delle società in cui vengono vendute, offerte e comprate le donne e le bambine. L'obiettivo ultimo delle mafie che agiscono su più livelli, alimentando, promuovendo, proteggendo e rinnovando la domanda del mercato, è questo obiettivo, il denaro e il piacere. Le mafie generano violenza e offrono protezione e corruzione attraverso il piacere, il denaro e il potere. È questo a renderle socialmente e politicamente forti. Il legame che unisce le mafie è il piacere che si origina dal godimento delle ricchezze accumulate, ma più di tutto è l'accesso al piacere sessuale che, dal momento che poggia su codici tradizionali di comportamento maschile, agisce da strumento di coesione e negoziazione tra gruppi di maschi. Questi uomini spesso si trovano in cima alla piramide sociale, sono politici, militari, uomini d'affari e burocrati e ricoprono ruoli di potere. Il senso di potere e superiorità che proviene dall'esercizio del controllo, dall'utilizzazione e dalla sottomissione delle vittime che genera la prostituzione rende ininfluente la loro età. Donne, adolescenti e bambine, l'età non ha importanza, basta che i loro padroni le possano vendere e comprare per utilizzarle e sottometterle. Scrive ancora Lidia Cacio: non esiste una sola storia di mafia in cui il sesso non sia presente. La nozione di donna come oggetto di piacere è invariabilmente presente nella biografia delle organizzazioni criminali giapponesi riunite nella Yakuza, nelle triade cinesi e nelle mafie italiane, russe e albanesi, così come nei cartelli della droga latinoamericani. Il potere economico e politico ha bisogno del piacere sessuale per esistere. Secondo i codici del maschilismo, le donne valgono in quanto oggetti, non in quanto persone, e persino quelle che fanno parte delle organizzazioni criminali riproducono gli stessi modelli di disprezzo e di misoginia. J'aimerais monter les uns contre les autres, mais si Dieu le veut bien, ce sera les gens simples contre les ordres. Enfants du siècle, avançons le poing levé, jeunesse et peuple du tiers-monde. Nous marcherons à tes côtés, ta lutte est la nôtre, tout comme notre lutte est la tienne. Justice et liberté pour tous les habitants de la terre. Sèche tes larmes et relève la tête, on est badaille, le combat nous attend. Toi sera le premier champ de bataille. Résistance, on a dit non, on a le nombre. Jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens. Des pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays. Marginal des pays riches, qu'attends-tu pour désobéir? Mon rap prône l'insurrection, car plus question de laisser faire. La lutte est nécessaire, en d'autres termes, ils veulent nous briser. Contre la dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons. Que ça morce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va. Les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers monde. Nous partageons ta douleur, vois-tu l'arc-en-ciel? Crame et leur enclos. Résistance, colonialisme et de ses guerres concrètes. Résistance. À l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. Résistance. À l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance. À l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. On est tous menacés. Système capitaliste n'est qu'un prédateur. On garde dans le monde ce qu'il réalise. Des génocides lorsque les peuples ne veulent pas quitter leurs terres pour les vendre à des grosses compagnies, grands frères, des militaires, chantage gouvernemental. En Occident, ils nous perdent le mental avec leur obsession du rentable. Ne connaissent pas l'amour, juste l'argent avec un grand A. Faites pas la paix, mais la guerre, c'est prolifique pour la vente d'armes. Ils ne voient que leurs avantages. Compagnons, faut qu'on s'active. Regarde leurs nuages, ils en tombent du sang radioactif. Leur sincérité est ironique. Considérée jetable, city inutile. Alors croissance économique, la quatrième guerre mondiale enclenchée, ne sois pas triste, l'espoir existe. Regarde le noble mouvement zapatiste pour toutes les résistances. Compagnons, combattons, tous les oubliés du monde, c'est ensemble que nous vaincrons. Contre leur dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers monde. Nous partageons ta douleur, vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs ajoutent la tienne. Cramer leur enclos. Résistance. À l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance. À l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. Résistance. À l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance. À l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. C'est la loi des grandes entreprises, leur monde une caricature. Mondialisation libérale, économie et dictature. Le tiers-monde ligoté par des traités de traite seulement. Pendant que le FMI impose son programme d'ajustement. Ça privatise à tout va, entrepreneurs, politiciens dévaluent l'entreprise d'État pour la vendre aux copains. Ils se refont le monde entre eux sans même se cacher. Ils se foutent des peuples et des cultures. Pour eux le monde n'est qu'un grand marché, un grand monopoly qui finira en monopole. Et leur manigance y a compris. Alors méfie-toi d'Interpol, les droits de l'homme comme les contes de fées. C'est loin qu'en Babylone qui ferme ta gueule et obéit. C'est l'OMC qui fait ses lois. Tiens, nous sommes que des statistiques ou des gentils esclaves. Fais gaffe à l'accident, c'est trop fort et trop vrai, tu t'exclames. Arrive le plus grand génocide ou le plus grand des désordres quand une civilisation se dresse. Elle veut exterminer les autres. Contre leur dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que ça morce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers monde. Vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs ajoutent la tienne. Là où est écrit en gros, justice et liberté pour tous, à nous de cramer leur enclos. Babylone, Babylone, entends-tu la colère monte, les oubliés de l'Occident et les oubliés du tiers-monde. Babylone, Babylone, tu nous as dit c'est marche ou crève, alors on marche ensemble contre toi pour faire valoir nos rêves. Babylone, Babylone, tu voudrais voir notre déclin, que nos idéaux partent en éclats, mais méfie-toi car on est plein. Babylone, Babylone, ta fin est proche, compte sur nous pour danser sur tes cendres quand ton règne finira en résistance. La schiavitù sessuale genera un circolo di denaro ingente che viene reinvestito in altri settori o riciclato dalle mafie. E rispetto al riciclaggio, un ruolo di primo piano lo giocano le banche e gli investimenti. Molti stati stessi, abbiamo detto, vivono dei proventi della schiavitù sessuale ed è per questo che adesso il commercio di schiave sta diventando sempre più sofisticato e riesce a sopravvivere a proliferare indisturbato, occupando i vuoti legislativi e sfruttando una legislazione tollerante e un clima culturale per molti versi compiacente e favorevole alla prostituzione. Innanzitutto bisogna capire che le schiave sessuali vengono rapite o costrette con la forza e obbligate dalla povertà o in alcuni casi persino dalle proprie famiglie a prostituirsi. Per cui è evidente che non possiamo parlare in nessun caso di scelta libera e consenziente. I trafficanti cancellano ogni possibilità della vittima di ribellarsi e liberarsi e di condurre una vita dignitosa. Le donne vengono tratte con l'inganno, stuprate e costrette a prostituirsi con la forza. La povertà è terreno fertile e di sviluppo della schiavitù sessuale. La schiavitù sessuale diventa quindi la risposta possibile per molte donne e bambine alla mancanza di mezzi di sostentamento e di educazione. In secondo luogo, la cosiddetta industria del sesso, rappresentata dal mercato della pornografia in primis e dalle riviste pornografiche, dai club karaoke, dai bordelli legalizzati e dai viaggi del sesso, alimenta la normalizzazione della schiavitù sessuale, costituendosi come potente lobby politica che fa apparire la prostituzione come qualcosa di endemico e naturale, come parte integrante delle nostre società, e agendo spesso e volentieri in base al principio secondo cui la prostituzione potrebbe salvare dalla fame intere nazioni. Queste lobby, con la loro propaganda politico-culturale e le loro azioni sul campo, alimentano anche un'altra concezione, secondo cui il mercato del sesso sia un'industria economica che non abbia nulla a che vedere con la schiavitù sessuale e che sia tutto una pura e semplice questione di denaro o di lavoro. Il corpo umano per questa industria è considerato alla pari di un prodotto da mercificare che si può commercializzare potenzialmente anche senza il consenso della sua proprietaria. In terzo luogo, non dimentichiamo che il maggiore propulsore della schiavitù sessuale è la schiavitù patriarcale, che viene usata a uso e consumo delle mafie e spesso e volentieri dagli stessi stati, qualunque essi siano, e che facilita e permette alla prostituzione di insediarsi, di diffondersi e di proliferare. Le mafie stesse, assieme alle lobby, sono i creatori materiali del commercio del sesso, ma sono i clienti a permettere che questo commercio si regga in piedi, sono loro le galline dalle uova d'oro, ad alimentare economicamente e culturalmente un commercio che brutalizza migliaia di donne e bambine in tutto il mondo e naturalizza una cultura misogina e di sottomissione delle donne che ha ricadute inimmaginabili sulla vita e la psiche di milioni di donne nel mondo. L'autrice chiude l'introduzione al suo saggio con un chiaro riferimento ai clienti e a tutti coloro che adottano, senza mai metterla in discussione, la visione fornita dalla cultura misogina e patriarcale, che ha permesso e ha favorito il sorgere di questa nuova schiavitù del XXI secolo, e lo fa con queste parole. In definitiva, questa è una mappa della schiavitù contemporanea, un'indagine che risponde alle domande essenziali del giornalismo. Chi, come, dove, quando e perché, in pieno XXI secolo, si vendono sempre più esseri umani, armi e droghe? La risposta che metterà fine a questo crimine è nelle mani dei cittadini del mondo. Spero che ciascun essere umano possa intraprendere il proprio cammino verso la libertà e la speranza, oltre il panico morale suscitato da questo argomento negli ultimi anni. Lidia Cacio. Qual è il metro di giudizio per valutare se una donna o un adolescente, un bambino o un ragazzo sono vittime della tratta e in che modo misurare tale fenomeno? In una ventina di casi universalmente noti, le vittime di violenze sessuali sistematiche hanno difeso i loro aguzzini davanti ai giudici. Molte vittime, a forza di maltrattamenti, hanno assimilato la violenza psicologica e sessuale come qualcosa di naturale e meritano, in virtù della propria condizione di genere, è meritato in virtù della propria condizione di genere, razza, nazionalità o classe e in certi casi tutte insieme. Le storie personali si rivelano fondamentali per misurare la dimensione del fenomeno sociale e criminale, continua Lidia Cacio. Abbiamo bisogno di capire fino in fondo come interiorizzi la paura una piccola brasiliana di 6 anni che è stata sfruttata per la pornografia infantile sin da quando aveva 4 anni. E sebbene non le piaccia quello che le hanno fatto, crede che sia una cosa normale perché così le hanno detto i suoi violentatori. Allo stesso modo dobbiamo ascoltare la trafficante filippina che prima argomenta con concetti liberali sulla prostituzione e poi, chiacchierando serenamente, arriva a raccontare di come sia stata abusata sessualmente durante l'infanzia, ancor prima di aver messo piede in un bordello per turisti coreani nel suo paese natale. Il fatto di aver normalizzato l'abuso fino al punto di non sentirsi più vittima le consente di trasformare altre bambine e ragazze nelle proprie vittime, senza provare alcuna colpa. Solo così potremo risolvere l'enigma e capire che il problema più serio nella banalizzazione della violenza è che riesce a rendersi invisibile fino al punto di sottrarre alle sue vittime la possibilità di rivendicare il proprio diritto a vivere fuori da un contesto di aggressione. Continua Lidia Cacio. Tutto a un tratto, come mi hanno detto varie prostitute organizzate, considerarsi vittima di un reato diventa quasi un insulto, persino più grande della stessa umiliazione causata dai colpi inferti da un cliente ubriaco o da una violenza anale. È questo il risultato cui si giunge quando la violenza sessuale viene osservata da una prospettiva liberale, come se fosse qualcosa a sé stante. È per questo motivo che una prostituta spagnola di Barcellona può dire: io non vendo il mio corpo, vendo un atto sessuale concreto, come una segretaria vende la sua conoscenza per scrivere una lettera. Per questa donna vendere un atto sessuale può essere equivalente a preparare e vendere un panino in un bar. Ma per un cliente penetrare un corpo, sottometterlo e trattarlo come un oggetto non rappresenta certamente la stessa cosa che mangiare un panino. Quest'ultimo è un atto di nutrizione meccanico, mentre la vendita dell'atto sessuale riveste un significato socioculturale che sottende il diritto di comprare persone e maltrattarle con il denaro. Un altro fatto che dobbiamo tenere in considerazione è che se conteggiassimo tutte le donne che nel mondo fanno parte di collettivi di prostitute o lavoratrici del sesso, come alcune si autodefiniscono, non arriveremo neppure a 500.000 di persone. Ciò significa forse che non abbiamo diritti che non abbiano diritti per il semplice fatto di appartenere ad una minoranza? Va da sé che ne hanno. Ma il dibattito si fa più complesso quando esaminiamo la validità delle rivendicazioni dei diritti da parte di una minoranza alla luce del fatto che la sua conseguenza è la promozione di valori socioculturali e reati concreti che colpiscono la maggioranza. Eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos. Não gosto. Eu não gosto do bom gosto. Eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos. Eu hospedo infratores e banidos. Eu respeito conveniências, eu não ligo para conchavos. Eu suporto aparências, eu não gosto de maus tratos. Mas o que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até os modernos e seus segundos cadernos. Eu aguento até os caretas e suas verdades perfeitas. O que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até os estetas. Eu não julgo competência.

ma non c'è paese in cui si compiano sforzi per creare autentiche condizioni di uguaglianza. In una cultura che si regge su valori misogini e patriarcali, il corpo femminile è visto come un oggetto che può essere comprato, venduto, utilizzato e gettato via. Le donne sono educate a sottomettersi a determinate regole e gli uomini istruiti a riprodurle, senza metterle in discussione. Siamo ai saluti, vi ricordiamo che se volete condividere le vostre riflessioni su quanto detto stasera o su qualsiasi altra cosa, argomento che vi può interessare, potete scriverci all'indirizzo connettive@gmail.com. Ora vi salutiamo e vi lasciamo con una canzone che parla di un'esperienza molto dolorosa di tratta, raccontata anche nel libro Schiave del potere di Lydia Cacho. Si tratta di Dragons di Rhoda Kershaw, una donna americana che è stata vittima della tratta in Giappone, dove era andata a lavorare come cantante nel 1989 e nelle maglie della Yakuza subì un atroce rito di iniziazione, un rito che sigla l'amicizia fra questi uomini, stuprando per giorni in gruppo una ragazza. È il rito di iniziazione che molto spesso fanno nei confronti contro le donne. Lei è una delle poche uscite vive e che ha potuto testimoniare su questi spietati e potentissimi mafiosi. Per approfondimenti in merito all'argomento vi consigliamo di visitare un sito molto interessante, molto che analizza in modo approfondito il tema della tratta e della prostituzione, ed è www.consumabili.blogspot.it, che si occupa appunto dell'industria globale del sesso ed analizza a fondo il lavoro di Lydia Cacho. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo che noi, insomma, immagino, speriamo che saremo in tante. Ci vediamo quindi questo giovedì all'Aquila davanti al tribunale per dire che la violenza ci riguarda tutte.